pezzo di idea. A conti fatti non ho perso niente. Era un buon cambio e la scelta era mia. Si trova sempre una ragione per brindare o ricordare o dimenticare, oppure stare solamente svegli al limite dei sogni, al limite dei sogni. Hai fatto dei concerti oceanici. È impossibile in un concerto oceanico vedere negli occhi di chi ti sta guardando, se non quelli più vicini. Ma tu cosa riesci a leggere nelle persone che ti vengono ad ascoltare, che vogliono ascoltarti? L'abbandono, non nel senso di lasciarmi, quello speriamo di no. No, l'abbandono emotivo è quello che ogni sera mi emoziona tantissimo. Io vedo un solo spettacolo ogni sera, perché non vedo lo spettacolo di cui faccio parte, io non riesco a vedere le luci, non riesco a vedere lo schermo dietro di me, vedo soltanto le facce che ho di fronte che mi cantano indietro le mie canzoni, con una, non solo una partecipazione, ma un abbandono emotivo nel farlo, che mi emoziona al punto che non riesco a farne a meno. Cioè sono poi quello che cerca di fare sempre più concerti che può, soprattutto per quel motivo. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Ligabue. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.